l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, sono le 10.08, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale che ci porta a scoprire l'altra Europa, l'Europa che viene raccontata quotidianamente da Radio 24 nella sua attualità economica, politica. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfumature, lo facciamo in collaborazione con il network paneuropeo Euronet. Euronet.eu è l'indirizzo del portale. In diretta i vostri messaggi al 349-238-6666, oppure ci trovate su Facebook nelle nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, oppure su Twitter @ Federico Taddia. Queste sono le coordinate, si parte ogni sabato un viaggio. Oggi la prima tappa è la Spagna. Dicen que dispersa y relaja la mente. En un pueblo de Tarragona pretenden que les ayude también a relajar la presión de la crisis económica. Apretados por las finanzas, los vecinos de Rasquera han llegado a una conclusión. Tienen campos fértiles alrededor del pueblo. Entonces, ¿por qué no emplearlos en plantar marihuana? El ayuntamiento cree que les puede reportar unos ingresos de 550.000 euros anuales y que creará decenas de puestos de trabajo. Esto es lo que convence a los vecinos. Se crearían unos 40 sitios de puestos de trabajo. Realmente estos son 40 familias. Crisi, la parola chiave di questi mesi, la parola chiave che ha fatto un po' da colonna sonora di questa Europa. E noi cerchiamo sempre di proporre anche soluzioni alternative, soluzioni anche creative. Andiamo in giro per l'Europa a cercare appunto eventi e fatti che ci fanno anche incuriosire. Beh, questa settimana la nostra attenzione è stata catturata da questa idea che ha avuto un comune, siamo a Rasquera in Spagna, in Catalogna. Il comune, per cercare di raccogliere un po' di fondi, ha deciso di affittare un po' di terreni a un'associazione di autoconsumo della cannabis, di affittare questi terreni appunto per coltivare marijuana, per capire il perché, per capire anche dov'è il confine tra legalità e illegalità, se esiste questo confine. Abbiamo invitato Alice Coppa, che è dell'associazione barcellonese di autoconsumo della cannabis. Ciao Alice, benvenuta all'altra Europa. Buongiorno a te. Allora Alice, ha fatto un po' il giro del mondo questa notizia, perché è curiosa notizia, che però insomma da quello che leggo, dal protocollo d'intesa che è stato firmato tra l'amministrazione e l'associazione, porterebbe il tutto nelle casse dello Stato comunale più di 1 milione di euro, quindi comunque un affare per il comune. Ma si può fare? È tutto all'interno della legge questo protocollo? Ovvio, assolutamente, se no un comune non avrebbe proposto questa iniziativa. Allora, le spiego un pochino il progetto. Grazie. Il progetto consiste nell'affitto di alcuni terreni del municipio di Rasquera, in questo caso in Tarragona, in Catalogna, per realizzare una piantagione di canapa destinata al consumo privato dei soci di questa associazione. ABCDA, che è un'associazione cannabica dei consumatori della cannabis, di autoconsumo del quartiere della Barcellonese in questo caso. Ecco, il progetto propone la creazione di appunto 40 posti di lavoro, che sarebbe circa un 5% della popolazione di questo paesino, ed un'inversione iniziale di 36.000 euro, che poi in 2 anni saranno calcolati 1.300.000 euro, per appunto che verranno divisi in ingressi, in tasse, affitti, cessioni di terreni, eccetera. Mm-hmm. Quindi gli ingressi saranno sia comunali che statali, ovviamente. Ecco Alice, non sono ovviamente mancate le polemiche all'interno del comune, so che in tanti hanno protestato perché c'è paura anche che diventi un'oasi di fumatore di cannabis, e soprattutto che questo diventi un incentivo all'uso della marijuana. Questo noi non lo vediamo così, ecco, sinceramente le associazioni per appunto degli usuari della canapa sono a fini ludici e terapeutici, ok? L'usuario, un socio appunto della mia associazione in particolare, può essere sia ludico sia terapeutico, quindi una persona che viene ad iscriversi a un'associazione già è un punto. settore. Di conseguenza, per esempio, è stata sollevata la questione dei giovani di questo paesino, eccetera. Ovvio che già ci sono giovani fumatori di canapa, cioè nel paesino come in tutti i posti del mondo. Ovvio, questo progetto potrebbe anzi aiutare la sensibilizzazione dei consumatori, appunto di vista appunto per un consumo responsabile e una sensibilizzazione appunto su che cos'è la marijuana, come può essere distribuita, come può essere utilizzata, eccetera. Ecco, perché voi come associazione comunque fate anche questa attività di sensibilizzazione, cioè viene spiegata, che cos'è, vengono spiegati anche quelli che sono gli eventuali rischi? Ovvio, certo, sì. La sensibilizzazione dell'utente è una tra le prime cose, perché ovvio noi vogliamo combattere il mercato nero, eccetera, però attraverso il controllo appunto del ciclo della pianta, dalla coltivazione alla distribuzione. Però la prima cosa è la sensibilizzazione dell'utente, quindi non obblighiamo nessuno, anzi cerchiamo di sensibilizzare appunto sugli effetti che possa avere la canapa, sugli effetti positivi per uso terapeutici, eccetera. Ecco, questo protocollo d'intesa tra un'amministrazione comunale, appunto, e un'associazione per dare in affitto dei terreni, è la prima volta che viene fatto o è un'esperienza che voi avete? È la prima volta. La prima volta. Per questo che ha sollevato certo. Così tanto interesse, ovvio. È la prima volta perché questo paesino è in crisi, era un paesino che si basava sul mercato agricolo, eccetera. E ovviamente ora con la crisi che c'è si sono trovati a avere un grande tasso di disoccupazione. E quindi abbiamo pensato, come a livello sociale, per ridargli un attimino di possibilità di risollevarsi appunto sempre nell'ambito della coltivazione. Alice, grazie davvero per averci fatto capire meglio, appunto per averci fotografato la situazione di questa notizia che ha fatto il giro del mondo e volevamo appunto approfondirla. Ciao e buon sabato, grazie. Grazie mille, arrivederci. Europost-it. La stranezza in mostra. Il Museo dei Taglia Erba a Liverpool, quello dei carri funebri a Barcellona, quello della stregoneria in Cornovaglia. Se pensate che entrare in un museo sia una noia, dovrete ricredervi. Tutta l'Europa è disseminata dei musei più strani, proprio per tutti i gusti. Potrete schifarvi con il Museo dei Peli in Turchia, oppure, se siete stomaci resistenti, buttarvi nel Museo delle Fogne a Parigi e, tappandovi il naso, visitare il Museo dello Stoccafisso a Lofoten in Norvegia. Se soffrite il caldo, potete fare un giro al Museo dei Ventagli di Greenwich e concludere degnamente il vostro tour delle stranezze con il mitico Nonseum, il museo delle invenzioni inutili vicino a Vienna, dove sono esposti spazzolini senza setole per chi non ha denti e matite senza mina per chi fa errori di scrittura. Un link per tutti, il sito del Nonseum, nonseum.at. Ανάπλαση στην παραλία κάνω. Εμένα τα κοροϊδέψετε. Ομαδικούς τάφους για τους συνταξιούχους κάνετε. Beh, non mancano le tracce di vitalità in questa Europa che ci piace raccontare. Abbiamo detto la crisi come colonna sonora di questi mesi. Tante volte siamo andati in Grecia. Oggi ci torniamo per raccontare un'altra iniziativa molto bella, molto romantica, molto poetica. Si va a teatro, ma il biglietto lo si acquista facendo il baratto, raccogliendo cibo in cambio di biglietti, cibo da destinare poi ai più poveri. Tutto ciò succede a Salonicco, dove c'è il Teatro Nazionale della Grecia del Nord, un insieme di teatri dove è stata lanciata questa iniziativa molto bella, molto significativa. Per capirla meglio abbiamo con noi una collaboratrice storica del Teatro della Grecia, costumista e scenografa. Diamo il benvenuto ad Ersi Drini. Buongiorno Ersi. Buongiorno. Allora, intanto Ersi, dacci un'idea, che cos'è il Teatro Nazionale della Grecia? Il Teatro Nazionale della Grecia Nord. Sì. È un teatro che possiede tre grandi teatri, ognuno ha di circa 1000 posti, e questi tre teatri lavorano tutto l'anno offrendo al pubblico spettacoli teatrali in contemporanea. Questo è il nostro teatro, che fa molti spettacoli ogni anno. Certo, ma immagino che sull'onda della crisi, insomma, anche il teatro stia subendo forti restrizioni, quindi la crisi abbia sfiorato anche tutto quello che è il comparto artistico e culturale. Però, appunto, in questo periodo di crisi è nata quest'idea, cioè cibo in cambio di biglietti. È una provocazione? Sì, il nostro direttore, che è Sotiris Kazakis, ha pensato per questa crisi, che veramente, ragazzi, è molto grave in Grecia. Questo lo dobbiamo dire. È molto grave, perché ci sono delle persone che non hanno da mangiare, non hanno da dormire, persone che avevano le loro case, persone che non immaginavano che potevano stare senza avere una casa da vivere. Allora questa crisi è veramente grave, e questa crisi è un'altra cosa che voglio dire, non è solo per la Grecia, perché Grecia è un esperimento che si fa per vedere come andrà la crisi a tutti gli altri paesi dell'Europa Sud, cioè Spagna, Italia, Portogallo. È una crisi veramente che non è solo nostra, questo lo dobbiamo capire. Certo. Allora noi lavoriamo adesso uno per l'altro, non possiamo fare nient'altro. Allora ha pensato il nostro direttore che gli attori del nostro teatro possono creare degli piccoli spettacoli dove può andare ognuno senza pagare il biglietto, portando soltanto una specie di cibo, cioè spaghetti, non so, olio, cosa vuole ognuno. E questi cibi vanno ai ragazzi che non hanno da mangiare, alle donne che sono in difficoltà, alle vecchie persone, a persone che sono giovani però non hanno lavoro e non possono trovare lavoro, se anche vogliono lavorare. Allora, questa era l'idea, e noi lavoriamo con molto piacere su queste idee, perché non possiamo fare nient'altro per aiutare uno l'altro. Certo, quindi la cultura, che comunque si dà da fare, entra a pie pari in questa crisi offrendo speranze, offrendo anche cibo, quindi attori che lavorano gratuitamente, attori che appunto mettono il proprio sapere, le proprie competenze, la propria arte a disposizione del teatro, e il biglietto lo si acquista appunto barattando generi alimentari che poi vengono destinati ai più poveri, ai più bisognosi. E poi capire com'è grave la situazione. E poi noi che abbiamo una cultura molto vecchia, come anche l'Italia, non possiamo vedere la Grecia di essere in questo punto adesso, di non poter fare nient'altro che aiutare uno l'altro. Molte volte abbiamo detto che in Grecia si respira un po' un'aria di depressione e di rassegnazione. Lo confermi anche tu? Sì. Speriamo però che dal teatro, appunto dalla creatività, possa arrivare una svolta. Erzi, grazie davvero per averci raccontato quello che state facendo, e insomma complimenti anche per l'impegno, per quanto voi vi stiate grazie mettendo in gioco in prima persona. Che pensate a noi, veramente, questo è che ci dà forza di andare avanti, se anche l'Italia pensa a noi. Anche questa è l'Europa. Ciao Erzi, grazie, buon sabato. Grazie, arrivederla. Europostit. Tirocini in tutta Europa per giovani artisti. Il Centro Formazione Studio Orientamento ha indetto un bando per 36 giovani artisti e operatori culturali che avranno l'opportunità di fare un tirocinio in Europa nel campo delle arti grafiche, del teatro, della danza, della musica, ma anche nell'organizzazione di eventi culturali. Le destinazioni sono tante. Si può scegliere tra Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Portogallo e Polonia. Il progetto offre l'alloggio, il viaggio andata e ritorno, le spese di trasporto e un contributo per le spese di vitto. C'è tempo fino al 15 marzo. Per maggiori informazioni visitate il sito cesfor.net. Hello, talk to me. Привет, поговори со мной. Merhaba, konuş benimle. Hallo, sprich mit mir. Salut, parle-moi. Vortun, Rosirinzet. Ahoy, move со мной. Ciao, parlami. Assalamu alaikum, kallimni. Hello, vanakkam, vanga, ennode pesunga. Italia, Europa, la sfida del multilinguismo. E questo è il titolo di un convegno incontro che si terrà lunedì 12 marzo alle ore 11 presso la Commissione Europea, la rappresentanza in Italia, in via 4 novembre numero 149 a Roma. Si parla di multilinguismo perché uno degli obiettivi principali dell'Unione Europea è quello di far arrivare il prima possibile qualsiasi cittadino a comunicare con la lingua materna e in più con almeno altre due lingue estere, e da questo obiettivo si è partiti per fare uno studio sulla conoscenza delle lingue straniere a Roma, e in particolare questo studio è stato fatto in collaborazione con l'EUNIC, che è la rete europea degli istituti di cultura nazionali che operano al di fuori del proprio territorio, presente nei 25 paesi dell'Unione Europea. Roma è stata fondata nel 2008 e con noi c'è Cornel Baicu, che è il direttore dell'Accademia di Romania. Ciao Cornel, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie, buongiorno. Per essere esatti, sono direttore dei programmi dell'Accademia di Romania. Scusa. No, niente. Sì, invece l'abbiamo fatto questo convegno con un grande impegno, con la grande gioia. Io personalmente, perché vengo di un paese dove si parlano 20 lingue, oltre il romeno come lingua ufficiale, la mia regione d'origine, Transilvania, è un multilinguismo da secoli. Nella mia città ci sono 6 comunità, io sono cresciuto in 3 lingue, romeno, ungherese e tedesco, allora posso dire che sono nato europeo. Arrivando qui in Italia ho visto questo fenomeno un po' diverso. Le nostre comunità che parlano una diversa lingua sono comunità storiche, vivono nel paese dai secoli. In più, certo, abbiamo da fare con la migrazione europea e extraeuropea, un impegno in più, una sfida in più, perché sono tante lingue che si parlano oggi, è davvero una torre Babel. Con noi in diretta Cornel Baicu dell'Accademia di Romania. Stiamo parlando di multilinguismo e stiamo parlando di questo sondaggio che è stato realizzato presso le biblioteche romane sulla conoscenza delle lingue straniere. Lunedì verranno presentati i risultati, però Baicu, ci puoi anticipare proprio un paio di dati significativi? Qual è la prima fotografia che si vede dando un'occhiata ai numeri e alle risposte che avete raccolto? Certo, allora c'è una proporzione davvero impressionante di gente che parla una lingua straniera, ci sono più di 65%, soprattutto donne, e noi uomini ci siamo una minoranza, ma comunque ne parliamo anche noi. Poi con due lingue sono ancora di meno, sono più o meno 25-27%, e poi da tre lingue in più in su ancora di meno. Dunque, la necessità di imparare lingue straniere è davvero una sfida, soprattutto per la giovane generazione, non solamente per avere accesso a una cultura straniera, ma anche per poter comunicare, per darsi una possibilità in più sul mercato del lavoro, per la mobilità, eccetera, eccetera. Sono tanti tante dimensioni di questo processo che è molto complesso, molto complicato, perché non c'è solamente la dimensione culturale, ma anche quella sociale, anche quella psicologica. Si tratta dell'integrazione dalla parte dei stranieri, si tratta dell'accettazione dalla parte degli italiani. Allora, tutti questi aspetti li abbiamo percorso, parlato al convegno. E la conferenza stampa di lunedì certo, ma darà in più un'immagine completa di questo processo. Cornel, un'ultima domanda. In tutto questo, insomma, è innegabile, ovviamente, ed è ovvia, insomma, l'importanza della conoscenza delle lingue proprio per fare una cultura comune, no? Al di là di tutti i livelli che tu hai elencato. Ecco, in questo percorso, gli istituti di cultura nazionale che ruolo hanno? Nel senso, è un ruolo specifico di conoscenza della lingua o più appunto di contaminazione culturale? Noi sì, certo, noi facciamo il ruolo dell'istituto culturale, nel caso mio dell'Accademia di Romania, è di trasmettere il messaggio culturale romeno nell'opinione pubblica italiana, fare conosciuta la cultura romena qui. Lingua romena inclusa. Noi abbiamo un corso di romeno all'Accademia, gratuito. Abbiamo cominciato 3 anni fa con 35 studenti, ne abbiamo 160. Allora, un interesse davvero per me impressionante, visto anche la similitudine delle nostre lingue. E noi non siamo unici, sono altri ancora più bravi, come i tedeschi, no? Il Goethe Institute, oppure British Council, oppure i francesi, che parlano lingue internazionali. Però il problema non è solamente di comunicazione. Io vorrei parlare della mia propria esperienza. Imparando le lingue impari anche la tolleranza, perché quello di accanto non è più straniero, è diverso davvero, ma è sempre il tuo amico e vicino. Allora cambia davvero anche la psicologia di cui parlavo prima. È un processo benefico, un processo di convivenza, di accettazione, di cambiamenti sociali. Perfetto, grazie davvero. Accadromania.it è l'indirizzo dell'Accademia, abbiamo già messo il link anche nelle nostre pagine in Facebook. Buon lavoro, ricordiamo l'appuntamento a lunedì con la presentazione di questo importante dossier. Ciao e grazie, buon sabato. Ciao, grazie anche a voi. Europost-it. Racconta il tuo Erasmus e vinci un tablet. In 25 anni sono 2 milioni i ragazzi europei che sono partiti per l'Erasmus, andando a studiare per un semestre o più nelle università di tutta l'Unione Europea. Sono esperienze divertenti, preziose e indimenticabili, che varrebbe la pena scrivere e condividere. Ecco quindi che la Commissione Europea ha lanciato un concorso ad hoc. Tutti gli Erasmi che hanno partecipato al programma hanno l'opportunità di presentare una storia, una foto o un video per raccontare l'esperienza che magari ha cambiato loro la vita. Tra i premi in palio, un tablet, un lettore MP4 e una fotocamera digitale. A decretare il vincitore sarà la rete, che attraverso Facebook potrà esprimere il proprio voto. Per partecipare c'è tempo fino al 30 aprile. I prodotti selezionati verranno invece annunciati mercoledì 9 maggio 2012. Per maggiori informazioni cerca Facebook Competition su ec.europa.eu/youthonthemove. Last year I was sitting around a table with the CEOs of large listed companies, and we made an analysis of the situation, and we saw that in European average only 12% of the board members are females. In the same time, we had all these interesting studies by Goldman Sachs, Deutsche Bank, McKinsey, Ernst & Young, who say very clearly, if we compare the turnover and the benefits. Chi sta parlando è il commissario europeo Viviane Reding, che ha pubblicato uno studio sulle donne che hanno esperienza nei posti di comando, nei direttivi delle aziende. Meno fiori e più lavoro, è un po' questo lo slogan che è stato lanciato per infrangere la barriera di cristallo che esclude le donne dai vertici delle società. Ha proprio parlato di barriera di cristallo, questa immagine, questa metafora che comunque è molto forte, il tutto in occasione della festa delle donne, ma il tutto anche per ricordarsi che questa tematica non deve essere trattata solo in occasione dell'8 marzo. E comunque dati importanti ci sono, per fortuna ci sono numeri che iniziano a essere anche incoraggianti, soprattutto in Francia, per esempio, dove c'è stato veramente uno sbalzo in avanti, al di là delle quote rose, della presenza di donna che è salita al 22% nei direttivi aziendali. Insomma, una tematica molto larga, molto complessa, molto complicata. Volevamo avere un contributo però autorevole. Sono molto contento di averlo ospite oggi qui all'Altra Europa, tra l'altro è in viaggio, quindi insomma lo abbiamo proprio disturbato anche un pochettino, ma lui ha consentito a fare l'intervista. Do il benvenuto a Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco Zeit. Ciao Giovanni, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, salve. Buongiorno. Tra l'altro la tua è una bellissima storia, perché tu sei un italo-tedesco, sei uno dei pochi italiani amati in Germania? Ma no, gli italiani sono amatissimi in Germania, no, assolutamente. Passano anche un pochino come gli integrati modello, che purtroppo però è vero solo in parte. Uh-huh. E tu Giovanni sei la guida di questo settimanale, ho trovato un'etichetta legata allo Zeit che mi ha incuriosito, è definito come un settimanale sofisticato, ti riconosci in questa descrizione? Abbastanza, è un settimanale non proprio facile da leggere, perché sono testi lunghi, sono testi anche di un certo livello intellettuale. La cosa sorprendente e secondo me molto bella, emozionante, è il fatto che noi dopo il giornale Bild, che è un giornale tabloid, siamo il più grande giornale tedesco, con una tiratura, copie, vendite più di 500.000 alla settimana, che è un piccolo miracolo se si considera che tutti si lamentano che la gente non vuol più leggere. Mm-hmm. E proprio il Bild, in occasione dell'8 marzo, ha lasciato a casa le 300 dipendenti del giornale, no? Un po' come provocazione. Sì, ha abolito la donna nuda sulla prima pagina. Mm-hmm. È stata una cosa... Non per un giorno solo, ma diciamo che tutta la Germania non parla d'altro. No, non scherzo. Bisogna vedere se questo è solo una trovata, una gag pubblicitaria. Mm-hmm. Ha portato la questione donne sui giornali, nel senso c'è stata una riflessione legata a questa provocazione, a questo esperimento, o è stata solo appunto una buttata? Loro dicono che è stata un'idea spontanea, ma si vede che c'era da parte delle donne lettrici da tempo una certa pressione per abolire questa foto un po' anacronistica. Mm-hmm. E credo che anche tu abbia letto appunto la Reading, insomma, questo sforzo. Ecco, qual è la tua lettura, soprattutto dalla Germania, dove forse anche grazie alla presenza della Merkel, credo che sia un tema molto sentito, un tema molto sensibile? Ma quello che in Germania in questo momento si discute è se è il caso o no introdurre delle quote fisse dentro alle aziende, una quota che per esempio il ministro del lavoro, che una donna vorrebbe avere del 30%, se nel giro di qualche anno qui non si muove qualcosa di veramente significativo. Per il nostro settore, quello giornalistico, noi in un articolo di fondo della settimana scorsa ci siamo impegnati di introdurre la quota per donne in tutte le funzioni di leadership all'interno del giornale. Sì. E pronto? Abbiamo perso un attimo, è caduta la linea, era appunto in viaggio, lo stiamo recuperando al volo. Vi ricordo che appunto siamo in collegamento con Giovanni Di Lorenzo, italo-tedesco e direttore di uno dei settimanali di informazioni più famosi al mondo, Die Zeit. Insomma, l'abbiamo intervistato, l'abbiamo contattato appunto per affrontare il tema delle donne e lavoro, partendo anche da questa lettera comune che il commissario europeo Reding ha scritto insieme al nostro ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, che potete trovare sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. una lettera bella, una lettera approfondita, tanti numeri appunto per raccontare quello che è la situazione delle donne, soprattutto all'interno dei ai vertici delle società è arrivato il momento di infrangere la barriera di cristallo. Questo è un po' lo slogan che ha accompagnato questa lettera e che ha riassunto quello che è lo sforzo a livello italiano, ma lo sforzo a livello europeo per alzare la percentuale delle donne nei posti di comando. Abbiamo recuperato Giovanni Di Lorenzo, stiamo con lui parlando di quote rose, di donne e lavoro a livello europeo. Giovanni, ci sei? Sì, ci sono, non so fino a quale punto c'era la linea, quello che ho detto fino all'ultimo, ho continuato a parlare finché mi sono accorto che non c'era più nessuna risposta, reazione da parte vostra. Non era disattenzione, è proprio caduta la linea. Giovanni, no, stiamo parlando appunto di quote rosa, del ragionamento che si sta facendo anche in Germania. Ce n'è bisogno e soprattutto è quella la soluzione? Ma non so se sono riuscito a dire che noi l'abbiamo introdotta questa quota. Sì. C'è stato un manifesto da parte di più di 300 donne del mondo giornalistico tedesco che hanno auspicato le grandi case editrici e anche le stazioni televisive di introdurre una quota entro 5 anni del 30%, e noi abbiamo detto ci stiamo, lo faremo, anche se siamo sempre stati scettici verso la quota, anche io personalmente, ma penso che se non ci facciamo questa pressione adesso non si muoverà niente. Perciò la sfida è accettata, noi faremo di tutto per introdurre a tutti i livelli di direzione del giornale questa quota. Mm-hmm. Che non mi sembra malvagia come... No, assolutamente, insomma, probabilmente non è la soluzione. Il ministro dell'interno italiano, la Cancellieri, un paio di giorni fa diceva non c'è bisogno di quote rose, c'è bisogno di asili nidi, quello è il vero aiuto che si può dare alle donne e in parte è condivisibile, nel senso ma che... Ma lì in Germania siamo già molto più avanti che in Italia, e nonostante questo, di 300, su 360 giornali tedeschi solo due, il 2% c'ha alla direzione una donna. Mm-hmm. Cioè, è una cosa che non si spiega. No, assolutamente. Non certo con gli asili nido. Assolutamente, sì. C'è altro, vero? Assolutamente. Sì. Giovanni, chiudo che poi ti lascio, che so che hai, un viaggio imminente. Legge una tua intervista, credo, su Panorama in questi giorni, dove parlavi della Merkel. Come sta la Merkel? Com'è il rapporto tra Merkel e i suoi cittadini in questo periodo? Ma in questo momento è forse il momento più fortunato per lei per quello che riguarda la sua reputazione nei confronti dei tedeschi, e che accettano e apprezzano molto il suo impegno per salvare la zona euro e l'euro per sé. Cioè sta facendo un lavoro durissimo, lo so che viene molto criticato dall'estero, ma in Germania si ha l'impressione che qui una persona senza nessuna vanità personale cerca di trovare degli strumenti difficilissimi da trovare. Quindi insomma c'è la consapevolezza delle... c'è molto scontento verso il governo, ma non verso la figura della cancelliera. Ecco, quindi insomma situazione bizzarra, ma credo significativa. Giovanni, non c'è nessuna discussione sul fatto che sia una donna o non donna. Questo, lei non ostenta mai il fatto che lei ce l'abbia fatto nonostante che sia una donna. Questo dall'inizio non l'ha mai fatto, come non ha mai cercato di accentuare il fatto che lei viene dalla Germania dell'Est, e con questo è riuscita a trovare un livello di accettazione veramente esemplare. Assolutamente, credo sia questa la vera quota rosa. Giovanni, ma hai tempo anche di seguire la situazione politica italiana? Guardi la TV italiana o non hai... Io cerco di seguire, però se ti perdi una puntata non ci capisci più niente di politica interna. Purtroppo questo è un grande problema per gente che sta fuori. Ho capito. Grazie davvero, Giovanni. I nostri giornali sono fatti bene, ma molto ermetici. Se non... Devi seguire tutto, se no non ci capisci niente. Grazie Giovanni, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa in una delle prossime puntate. Ciao e buon sabato, grazie. Beh, écoutez, une excellente journée, on ne peut pas mieux, on s'est occupé de moi, on m'a chouchouté, que dire, que du bonheur, que du positif, voilà. Est-ce que vous pensez que ça va vous aider dans votre recherche d'emploi? Je ne pense pas. Peut-être dans la présentation au cours d'un entretien, mais fondamentalement non. Mais je le prends comme une bonne journée, quoi. Voilà tout. J'ai accepté parce que déjà, j'avais très longtemps, je voulais faire un atelier relooking. C'est-à-dire que j'avais pensé à avoir des conseils de relooking. Stiamo andando in Francia, in questi minuti finali della puntata dell'Altra Europa. Parliamo ancora di donne, ma da grazie a un'iniziativa molto particolare, un progetto forte, un progetto tosto, uno di quei progetti che ti dicono, accidenti, ma sì, in effetti è la scoperta dell'acqua calda, e invece no, nessuno ci aveva ancora pensato. Stiamo parlando di parrucchiere per disoccupate, ovvero come aiutare le donne disoccupate a rifarsi un look in preparazione, per esempio, a un colloquio di lavoro, non tanto per cercare una bellezza nuova, una bellezza diversa, quanto per dare un sostegno morale. Per capire bene questo progetto, come è nato, da chi è portato avanti, abbiamo invitato una persona che conosce da vicino questa iniziativa. Diamo il benvenuto a Manuela Pole Cavaliere. Manuela, ho pronunciato bene il nome e cognome? Sì, buongiorno, perché sì, è perfetto. È perfetto. E tra l'altro, prima di entrare nel vivo dell'iniziativa, ho scoperto che fai un lavoro assolutamente particolare. Sei una decoratrice in oro, ho capito bene? No, sono una doratrice in oro, faccio l'artigiano, sì, ma comunque non è esattamente il soggetto di oggi. Siamo lì per parlare di Christine e di Erel. Mm-hmm. Chi è? Che è una mia amica carissima, sì. Che è una donna veramente molto in gamba, fa parte di queste persone rare che danno un'umanità molto particolare, una luce particolare in queste vite cittadine molto difficili. Mm-hmm. Una donna particolare, appunto, molto intraprendente, una sognatrice, però con i piedi per terra. Ed è stata lei che ha ideato questo progetto? Sì, è stato Christine Salin per la Fondazione Erel che ha fondato questo progetto molto bello. E non tanto di dare il relooking, come diceva prima, sì, e di completare un tutto. Cioè che la donna che cerca un lavoro ha bisogno di sentirsi sia bella all'esterno che anche all'interno, in maniera psicologica, per arrivare davanti a un colloquio con una certa fiducia in se stessa. E dunque lei lavora a organizzare seminari intorno a questa iniziativa, che si occupa di diverse cose, sia del trucco che del parrucchiere, che di come farsi le mani e le unghie per bene, che dello stile anche. Mm-hmm. E dunque queste donne vengono al mattino dalle 9:30 fino a tutta la giornata a seguire questi seminari. Questi seminari sono organizzati da un professionale, sì, che sono sia delle scuole di trucco, dei parrucchieri professionali, delle stylist, delle scuole di moda, e c'è anche un direttore di risorse umane che vengono per organizzare, imparare a parlare, a presentarsi bene. E dunque vengono anche delle ditte per proporre anche direttamente il lavoro a queste donne, che sia L'Oreal, General Motors, Marriott Hotel. E dunque è tutto fatto in un senso molto umano, molto simpatico, intorno a queste donne che vengono per essere coccolate, insomma, per essere messe in fiducia, essere prese in cura. E quali... cosa molto anche bella che ha fatto, sì, Christine, che in partenariato, si dice, sì, con l'ufficio di collegamento Pôle emploi, che è l'ufficio di collegamento ufficiale di Francia. Ok, quindi insomma a tutti i livelli coinvolti, questo è importante, vuol dire che comunque c'è anche un lavoro di rete e viene riconosciuta l'importanza di questo progetto, questi atelier gratuiti dove appunto le donne imparano a probabilmente anche a prendere sicurezza, no? Quindi magari hanno perso un lavoro, quindi momenti di depressione, ci sono strumenti per superare questi periodi, si passa attraverso il look, si passa attraverso la postura, si passa attraverso un coaching che viene appunto fatto in questi laboratori. Quali sono i risultati, Manuela, nel senso che c'è richiesta, c'è partecipazione, c'è cambiamento in queste donne? Sì, ci sono molto cambiamenti, una bellissima esperienza, un bellissimo momento molto caldo e simpatico. Il fatto che, ad esempio, quando queste donne vengono, Christine e la Fondazione Erel va più lontano anche di quello, sta organizzando ad esempio adesso di dare a queste donne un vestito con la gonna, con la maglietta e la veste, sia perfetto per loro per andare dopo a fare un colloquio in maniera molto molto bene presentato, insomma, presentandosi bene. Il risultato è interessante perché il tasso di riuscita è tra il 50 e il 70%, cioè queste donne sono talmente prese bene in mano, talmente curate, che quando arrivano dopo a cercare un lavoro, arrivano a prendere i colloqui e poi a essere assunta in questo lavoro, tra il 50 e il 70%, il quale è un ottimo risultato. Mm-hmm. Insomma, diamo il sito, che è www.rl.org, che è il sito dell'organizzazione, l'abbiamo già pubblicato sia in Facebook che in Twitter. Emanuela, ti ringrazio per averci raccontato questa storia, però ci ridiamo appuntamento qui all'Altra Europa, così la prossima volta ci racconti anche la tua di storie, va bene? Volentieri. Volevo solo dire anche un'altra cosa. Prego. E questa iniziativa di Christine è veramente un'iniziativa molto bella e molto ricca. C'è una donna che conosco da mia amica, una persona veramente in gamba, e sembra che sarebbe una cosa interessante anche magari da fare e da montare in Italia. Certo. Conoscendo un po' la mia esperienza in Italia, sarebbe interessante. Una domanda aperta a tutti quanti, se mai c'è questa possibilità di fare questi legami importanti di umanità, lei è pronta a ascoltare e ricevere alcune persone. Perfetto, un progetto assolutamente replicabile e ci piace poterlo sostenere. Ciao Manuela, grazie, buon sabato. Grazie, arrivederci. Chiudiamo sulle note dei Birkin Tree. Loro portano la musica irlandese in giro per l'Europa, un gruppo italiano, però gli unici autorizzati a suonare anche in Irlanda, e saranno con noi sabato prossimo qui dal vivo, musica dal vivo per festeggiare a modo nostro San Patrizio, quindi la festa nazionale irlandese. Con questo invito chiudo la puntata di oggi, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra, Margherita Ine, Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza e Peter Bescapè alla parte tecnica. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.